Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Quanto presente e quanto futuro nel decreto rilancio? Se lo stanno chiedendo in molti e noi qui a Smart City proviamo a farlo da un punto di vista preciso, ovvero chiedendoci quanto questi provvedimenti previsti dal decreto siano coerenti con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, la cosiddetta Agenda 2030, che vanno insomma dalla giustizia sociale alla lotta al cambiamento climatico. L'occasione di affrontare in questo modo il tema ce la offre un convegno, naturalmente un convegno online, organizzato pochi giorni fa da ASVIS, a cui hanno partecipato anche numerose imprese e autorità italiane ed europee. ASVIS è l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, si occupa di promuovere l'attuazione dell'Agenda 2030 e con 270 aderenti è la più grande rete di organizzazioni, una specie di associazione di secondo livello della società civile in Italia. E allora diamo il benvenuto al fondatore di ASVIS, Enrico Giovannini. Buonasera. Buonasera a tutti. Giovannini è anche professore all'Università Tor Vergata di Statistica, è stato presidente dell'Istat, capo dell'ufficio statistico dell'Ocse, ministro del lavoro e delle politiche sociali nel governo Letta. Allora, Giovannini, partiamo dall'analisi che avete presentato al convegno giovedì 28 e che fotografa appunto la distribuzione delle risorse su varie voci, su vari obiettivi. Beh, noi siamo andati a vedere i vari decreti, il Cura Italia, il liquidità, il rilancio, da due punti di vista. Uno è quello proprio degli obiettivi di sviluppo sostenibile e mettendo tutti i provvedimenti insieme vediamo che in gran parte sono concentrati sull'obiettivo 8, quello occupazione, crescita economica, il 9, infrastrutture, imprese e poi 16, pubblica amministrazione, giustizia e salute, naturalmente l'obiettivo 3. Altri sono distribuiti in altri obiettivi e siamo invece straordinariamente indietro sulla lotta alle disuguaglianze di genere, ai servizi idrici e sociosanitari e poi l'ambiente, che è sostanzialmente il grande assente. Dall'altro lato abbiamo guardato a una nuova classificazione che abbiamo sviluppato insieme alla Commissione europea tra politiche che proteggono, che promuovono, che prevengono, che preparano e che trasformano. Ecco, mentre il Cura Italia era tutta quasi protezione, il liquidità era per il 70% protezione, 20% promozione, con il decreto rilancio la protezione è scesa al 56%, ma solo il 5% sono interventi di vera e propria trasformazione del nostro sistema socio-economico. Quindi una quota decisamente piccola di futuro, si potrebbe dire così. Voi che cosa proponete? Che cosa avete proposto al governo italiano, appunto come rappresentanti di molte realtà diverse? All'inizio di maggio abbiamo presentato un aggiornamento del nostro rapporto annuale che contiene molte proposte di policy, sia di natura economica, sociale e ambientale. Ma abbiamo nel convegno del 28 pubblicato anche un piano, un pacchetto di investimenti a favore dello sviluppo sostenibile delle città e dei territori, sono circa 200 miliardi in 10 anni, articolati in transizione verde, trasformazione digitale, sanità e povertà. Naturalmente nella transizione verde sono ricompresi tanti interventi di riqualificazione energetica, sicurezza sismica, insomma i temi in cui sappiamo l'Italia è molto indietro e su cui il nuovo piano europeo, il cosiddetto Recovery Fund, in realtà si chiama Next Generation EU Fund, proprio con il senso del futuro, chiede ai paesi di investire particolarmente per la transizione energetica ecologica, per un'economia più green, per innovazione, digitalizzazione e formazione delle persone. Dove proponete di andare a prendere questi soldi? Parliamo di quasi 20 miliardi l'anno. Una parte possono venire dai fondi europei stessi, una parte sono gli investimenti che lo Stato e gli enti pubblici fanno, ma abbiamo anche proposto di ripensare profondamente i 19 miliardi all'anno che lo Stato eroga a imprese e famiglie per sussidi che danneggiano l'ambiente. è una discussione che si fa da molti anni, noi proponiamo una soluzione sostanzialmente radicale, cioè di eliminarli soprattutto in un momento in cui il prezzo del petrolio è crollato e resterà basso e quindi il mercato già dà un grande beneficio a chi usa questa materia prima e per esempio si potrebbero trasformare in 10 miliardi di riduzione permanente del cuneo fiscale, quindi incentivando le imprese ad assumere, 5 miliardi potrebbero andare proprio ad aiutare le imprese per transitare un'economia più sostenibile e poi potremmo immaginare gli altri 4 miliardi sempre all'anno per un piano straordinario per giovani e donne, per l'occupazione giovanile e femminile, perché sappiamo che queste due categorie sono le più colpite negativamente dalla crisi. Ecco, perché buona parte di questi sussidi dannosi per l'ambiente sono sussidi dati a dei carburanti fondamentalmente, è corretto? Il petrolio appunto ha così basse quotazioni che questi soggetti stanno comunque beneficiando di un bonus visto e secondo le previsioni il prezzo del petrolio resterà comunque basso. Allora perché lo Stato deve ulteriormente incentivare? In questo modo sposteremmo l'attenzione invece su quelle imprese che creano occupazione invece che dare sussidi alle imprese che, consumando energia fossile, danneggiano l'ambiente. E magari lei dice si aiutano anche a convertirsi ad altre fonti di energia. Va bene, grazie Enrico Giovannini. Grazie a voi, buon lavoro. Ci fermiamo qui, buona serata a tutti.